si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. L'appuntamento del sabato e della domenica con l'altra cronaca, l'altra attualità su Radio 24. Si può fare, insomma, se siete stufi di sentir parlare della crisi economica, adesso tra l'altro si è aggiunta anche la crisi politica con le imminenti elezioni, allora seguiteci perché vi porteremo per altri sentieri notizie. Così, per esempio, dall'Eco di Bergamo, una 79enne, grazie agli insegnamenti ricevuti durante un corso organizzato per la terza età, è riuscita a smascherare e a mettere in fuga un malvivente prima che riuscisse a derubarlo. La notizia viene anche romanzata su questo giornale di Bergamo. Verità o verità romanzata che sia, fate come volete, va benissimo. È una notizia simpatica che ci dà fiducia sui 79enni e sugli anziani di oggi che vivono nelle nostre città. Un'altra notizia che viene da Ascoli, sempre della serie iniziative di singoli cittadini che ci insegnano che insomma si può fare in questo periodo di crisi economica, da disoccupati a piccoli imprenditori. Accade ad Ascoli, il panificio Le Fonti nella zona di Borgo Solestà è stato rilevato da 4 persone in cerca di lavoro, racconta Francesca, una di queste 4. Tutti e 4 abbiamo avuto esperienze di lavoro simili, ci siamo trovati contemporaneamente disoccupati, abbiamo pensato di rilevare il forno del nostro quartiere, è stata la nostra occasione per riuscire a fare qualche cosa di buono. Beh, beati loro. Bene, insomma, piccole notizie che però possono essere insomma d'aiuto. Per esempio, a Bari, contro i furti, per Natale regala una Cesso Bike. Cesso Bike, perché? Perché questo che succede in questa città, un'iniziativa non senza una certa ironia, lanciata dai creativi del ciclospazio di Bari per far fronte al boom di furti di biciclette, succede in tutte le città e anche alla crisi. Propongono per Natale di adottare una bicicletta mezza distrutta nel loro laboratorio in via San Lorenzo numero 5 a Bari. Trovate tutto l'occorrente per divertirvi a rimettere a nuovo il rottame, trasformarlo in una bicicletta povera ma bella che funziona e soprattutto non fa gola ai ladri. E chi abita in una grande città lo sa che le biciclette purtroppo fanno troppa gola ai ladri. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24, siamo anche su Twitter, si può fare 24, io Ale Maurizi, scriveteci le vostre notizie, commentate i servizi che sentite in onda. E poi durante la settimana non dimenticate la nostra segreteria telefonica, la ricetta per salvare l'Italia in un minuto, proseguono le vostre telefonate. Scusa, ma che ore, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo, fine del mondo, immondo, visione diretta da San Pietro per l'occasione, la borsa sale, i marroni no, Ferri batte il record di autogol, le liste del giudizio universale, erano trasmesse dai telegiornali, ma rete unificate, poi sulla pagina 666, ma prima però sul canale ci sarà il terzo festival del dolore con la finale dei Casumani, meno mani che mai i puttani recitino dentro, che là di là niente ciccia, niente ma tu giri più leggero bruciando le tue scorte di preservativi, fiori in fiorello d'amore bello, se ci sei tu anche tu. E come sapete si sta avvicinando la fine del mondo secondo un'interpretazione nota della profezia Maya, non so voi ma io infatti comincio a sentirmi un po' strano, sento intorno a me montare qualche cosa di strano, ma siccome la nostra missione è trovare buone notizie, anche questa volta siamo riusciti a scovarne una, non è stato difficile a dire la verità perché la cosa ha preso piede e si è diffusa la notizia secondo cui a Cisternino in provincia di Brindisi praticamente non ci sarà la fine del mondo. Abbiamo con noi il sindaco Donato Baccaro, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. C'è una controprofezia del profeta indiano Babaji, Babaji, sì, che dice proprio questo. Mi immagino che casino dalle vostre parti quando si è sparsa questa notizia. Beh sì, ormai diciamo siamo pieni, le prenotazioni ce ne sono tantissime, e però ecco cerchiamo di accogliere Cisternino. diciamo, è già una meta turistica durante l'estate, no? Di fatto. E quindi siamo pronti per ospitare anche, come dire, questo 21, sì, dove noi non ci crediamo, diciamo. Ah, ecco, appunto, io infatti le volevo chiedere questo. Lo speriamo, ecco. Cioè, lei non crede, non crede che Cisternino si salverà, o non crede che ci sarà la fine del mondo? Beh, non credo che ci sarà la fine del mondo. Poi... Lei è tranquillo, lei non sente attorno a sé qualcosa di strano? Io no. No, è tranquillo. No, ma lei è tranquillo, certo, perché è Cisternino, appunto. Certo, poi c'è una differenza. Cisternino, diciamo che c'è comunque, ecco, perché viene scelta, perché è stata scelta, no? Anche questa per, è una bella domanda. Da questa comunità, no? Probabilmente perché c'è qualcosa di diverso. E credetemi, io lo sento nei momenti in cui quantomeno ritorno da fuori e arrivo a Cisternino. Non sì, perché sono nato a Cisternino, ma perché nei momenti in cui arrivo si respira un'aria diversa. Cosa sente lei? Un'oasi di pace, di tranquillità, proprio ti entra, come dire, nell'anima, no? Quel profumo, quel modo di respirare pulito. E quindi questo, pensiamo che qualche differenza ci sarà, qualcosa di diverso ci sarà. Cioè, è come se ci fosse una specie di campo magnetico, di qualcosa di sarà, un'aria, sarà una bolla, sarà un campo magnetico, sarà qualcosa di positivo. Comunque c'è, voglio dire, no? E non è di oggi, voglio dire, la scoperta. Perché Babagi, da quanto tempo la comunità di Babagi? Già da 40 anni qua nella nostra zona, no? Sì. E quindi non è un fatto di oggi, voglio dire, ma no, l'ho scoperto qualche anno fa o qualche mese fa. Questa notizia, quindi, voglio dire, ha travalicato i confini dell'Italia? Avete prenotazioni anche dall'estero, oppure beh, è una cosa? Sì, assolutamente sì, ormai dall'Europa, ma anche fuori Europa. Probabilmente ne vogliono approfittare, voglio dire, per vedere questo posto, anche perché ci sono le feste natalizie, non lo sappiamo. Comunque, ecco. Cosa pensa che potrà accadere la notte tra il 20 e il 21 dicembre, tra pochi giorni, lì a Cisternino? Cioè, ci sarà un caos infernale, un sacco di gente? Cosa fate? Noi ci stiamo preparando per accogliere, quindi prepariamo anche, come dire, delle serate, no? Per comunque, ecco, per non diventare proprio, come dire, no? La sera o il giorno dopo così monotono, assolutamente no. Noi siamo sempre abituati ad accogliere, quindi faremo delle, come dire, quasi delle notti bianche, no? Però non le chiamiamo notti bianche, ma bensì comunque, insomma, nel vostro serate, piccolo è una specie di notte bianca per raccogliere. Va bene, insomma, che dirvi? Cari amici apocalittici, sapete adesso dove potete andare il 20-21 dicembre? Potete andare tutti a Cisternino, perché secondo la controprofezia di Babagi, che non è scritta tra l'altro, è solo tramandata oralmente. Sì, non è scritta. Quindi però, non c'è prova certa. Però, e poi un'altra cosa, chi viene qua si mangia bene, si mangia bene. Questo sempre, lei dice, a prescindere dalla fine del mondo, giustamente. A prescindere dalla fine del mondo, sì, senz'altro. Si mangia che è la fine del mondo. Va bene, grazie Donato Baccaro, sindaco di Cisternino. Allora ripetiamo l'appello, cari amici che credete nell'Apocalisse, sapete dove recarvi il 21 dicembre a Cisternino. La sigletta che forse qualcuno avrà riconosciuto di Masterchef, uno dei programmi di cucina in TV più diffusi, tra l'altro sta ricominciando proprio in questi giorni su Sky, perché siamo passati a parlare da corsi di sopravvivenza per la fine del mondo a corsi di sopravvivenza in cucina. Cook Young, un'idea premiata da poco dal Corriere della Bocconi, un'idea di Irene Mini, buongiorno. Sì, buongiorno. Un corso di cucina e una app per giovani costretti all'autosufficienza in cucina. Un'idea apocalittica anche questa, immaginando degli adolescenti disperati in cucina che non sanno cosa fare. E allora di qua la sua idea, Irene. Come nasce questa idea prima di tutto? Nasce da un'esigenza familiare, nel senso che io ho due adolescenti in casa e stufa di vederli arrabattarsi davanti al frigorifero ho detto da oggi vi insegno a cucinare e basta, da questa cosa è nata l'idea. Quindi io ho due ragazzi assolutamente autonomi in cucina e Niente, fanno sfoggio delle loro capacità con amici e tutto il resto. Ecco, ma quindi diciamo tutto nasce con l'idea di trasmettere a loro la capacità di arrangiarsi in cucina, però poi ne viene fuori anche l'idea di mettere su un'applicazione per smartphone, insomma. Sì, assolutamente, anche perché siccome la fascia è quella degli adolescenti, cioè io più che i figli, più che i ragazzi non vedo in mano questi smartphone, allora da qui è nata l'idea, facciamo anche un'app con col corso di sopravvivenza, e da qui è nata questa idea. Ovviamente l'idea è ancora in fase embrionale e speriamo che qualcuno appoggi, che mi supporti in questa iniziativa. Irene, che tra l'altro nella vita si occupa, fa il grafico, e in una importantissima casa editrice italiana, diciamo, il Sole 24 Ore, però è un caso che ne parliamo noi di Radio 24 e il Sole 24 Ore, perché Irene Mini è stata menzionata da un'iniziativa della Bocconi e del Corriere, quindi siamo proprio non in conflitto di interessi, al contrario, siamo in un incrocio di interessi. Sì. Irene, ma quali potrebbero essere gli sviluppi di questa idea? Come dovrebbe funzionare questa app per adolescenti smanettoni che però possono smanettare anche in cucina? Non so, potrebbe essere tutto girato come un gioco, nel senso che cerchi di capire se hai usato l'attrezzatura giusta, se hai usato il quantitativo di calorie corretto, cioè proprio tutto un gioco potrebbe essere, perché questi ragazzini veramente, fino a che non gli ho insegnato a utilizzare gli strumenti banali, da uno spumarola a un mestolo, erano lì a guardare e a dire: ma che cosa devo usare, quale coltello ci vuole, cioè proprio e quindi da lì l'app era tutto un gioco, cioè ho usato l'attrezzo giusto, vai avanti, ho usato quello sbagliato, torno indietro, cioè proprio così potrebbe essere questa app. Irene, lei ci crede? Prima o poi troveremo nell'Apple Store questa applicazione, o rimarrà solo un'idea, un gioco, diciamo nella cucina di casa sua e poco più? Io spero vada avanti, ma temo che rimarrà solo nella cucina di casa mia, anche se comunque io sono supportata in questa iniziativa nel fare anche dei mini corsi di cucina da una cuoca professionista, e quindi cioè, se qualcuno incominciamo a avere una sede dove portare avanti questa iniziativa, si potrebbe poi proseguire anche tutto il resto. Quindi oltre a una sede dove fare corsi di cucina, Irene, cosa le manca? Anche un programmatore, uno sviluppatore per fare questa app? Vogliamo fare un appello? Io penso che la cosa venga successivamente, nel momento ma cioè inizialmente, essendo proprio solo nell'embrionale, manca proprio tutto, quindi sono anche alla ricerca di tutto il resto. E allora insomma è un appello anche questo, se vogliamo, l'idea è gustosa, Cook Young, per insegnare agli adolescenti a cucinare, e chissà che non ne venga fuori qualcosa di più che un'idea nata nella cucina di casa Mini. Grazie intanto per essere stata con noi. Niente, grazie a voi. E in bocca al lupo. Più avanti parleremo di un'altra startup, un pochino più avanti nella realizzazione, e quindi un'altra storia che ci insegna che anche in questi tempi di crisi si può fare. Ci spostiamo a Palermo, in Sicilia. Addio Pizzo rilancia, in vista del Natale, la sua strategia di consumo critico anti-racket per unire gli imprenditori che fanno parte di questa rete, di imprenditori che appunto hanno detto no, assolutamente no al pizzo, ma anche di cittadini che sostengono questi imprenditori in questa rivolta contro il pizzo, sostenendoli appunto con i loro acquisti. Ne parliamo con Dario Riccobono del Comitato Addio Pizzo di Palermo. Dario, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Eccoci qua, farete un bel po' di iniziative. Quali a Palermo in questi prossimi giorni? Ma stiamo facendo un po' un po' di casino per cercare di richiamare l'attenzione verso la rete dei commercianti e imprenditori di Addio Pizzo. Quindi fare casino ci piace, perché insomma non è questa materia su cui si possa essere morbidi, insomma, quindi esatto, bisogna fare casino per farsi sentire. Quindi niente, richiamiamo l'attenzione, è Natale, tutti ovviamente siamo alle prese con i nostri acquisti, ecco, quale occasione migliore per acquistare dai commercianti che non pagano il pizzo, e noi avremo il piacere di incontrare tutti i consumatori, tutti i cittadini consumatori a Piazza Castelnuovo, quindi la piazza principale di Palermo, giorno 22 e 23 dicembre per l'intera giornata, e incontrandoci lì avremo modo di fare il punto, daremo un omaggio a chi si farà riconoscere come consumatore pizzo free, in qualche modo chi mostrerà appunto la prova di acquisto, e soprattutto vorremmo che diventi protagonista assieme a noi di questa campagna. Abbiamo allestito un video box, quindi dove si potranno lasciare dei brevi messaggi di 30 secondi, un messaggio appunto per incentivare gli acquisti pizzo free, per dire pago chi non paga. Sì, non mandate tutti a quel paese come fa Beppe Grillo nei suoi messaggi. Fate qualcosa di più costruttivo. Diverso, no? A proposito di Beppe Grillo, visto che nelle ultime elezioni in Sicilia c'è stata anche l'affermazione, primo partito di Beppe Grillo, non per parlare di quello, ma tanto appunto di questa recente tornata elettorale, nelle vostre battaglie contro il pizzo, per la legalità, contro il racket, c'è un cambiamento di paradigma con queste nuove elezioni? Cambia qualcosa o non cambia nulla, Dario? Ma innanzitutto, oltre la lotta al racket, in qualche modo ci permette di essere tutti protagonisti in modo semplice, no? Questa campagna ci ha permesso di portare l'antimafia in qualche modo alla portata di tutti, però ovviamente la battaglia che conduciamo noi è prima di tutto politica, innanzitutto politica. Basta riprendere le parole ormai vecchie nel tempo del 91 di Libero Grassi, che diceva appunto che bisogna occuparsi della qualità del consenso. Una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia. Quindi questo è stato sicuramente la nostra, diciamo, il nostro punto di riferimento, queste parole. Abbiamo cercato di alzare il tiro nelle nostre iniziative, nelle nostre campagne, e i problemi li abbiamo proprio riscontrati quando abbiamo chiesto le dimissioni prima di Cuffaro e poi di Lombardo, gli ex presidente della regione. Insomma, Dario, ma adesso con Crocetta e con quest'ondata di grillini, insomma, qualche cambiamento c'è stato? Vi sentite più spalleggiati, meno spalleggiati? Farete continuerete ovviamente a fare le vostre denunce se sarà il caso, ma così adesso quale aria si respira? Speriamo che la situazione sia cambiata. Simbolicamente è stato un grande cambiamento, ovviamente. Partiamo da Cuffaro che sconfigge le elezioni, Rita Borsellino, a questa affermazione di Crocetta che nasce come sindaco antimafia in una realtà difficile come quella di Gela. È stata appena varata una legge contro gli incarichi incrociati, parenti, eccetera, proprio in Sicilia, per evitare quel malcostume, purtroppo terribilmente diffuso non solo in Sicilia, e questo è già un passo parallelo rispetto a quello che fate voi. Insomma, Addio Pizzo è qualcosa di diverso, lo sappiamo, ma sono buone notizie anche queste. Dario, che dire, se qualcuno volesse aderire anche fuori da Palermo e dalla Sicilia, è possibile darvi una mano, partecipare in qualche modo, e quali sono i canali eventualmente? È possibile in tantissimi modi, è possibile sostenendoci, facendosi la tessera, contattandoci, acquistando anche i nostri gadget, quindi attraverso il nostro sito www.addiopizzo.org, o venendoci a trovare e facendo un viaggio pizzo free con Addio Pizzo Travel, ad esempio. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Oggi con Si Può Fare siamo partiti dalla controprofezia del profeta indiano Babaji, secondo la quale a Cisternino non ci sarà la fine del mondo. Cisternino in Puglia si salverà, e quindi abbiamo sentito un po' dal sindaco come si stanno organizzando per far fronte alle orde di turisti e di apocalittici che per salvarsi si stanno recando a Cisternino. A questo proposito vi ricordiamo anche il nostro speciale La Notte Prima della Fine del Mondo con Federico Tadini, il 20 dicembre, che non è venerdì, a partire dalle 21, e seguiremo un po' che cosa accade nelle ore che precedono la famosa profezia dei Maya. E adesso, se il lavoro non c'è, me lo invento. Tu hai visto la luce? Qual è? visto la luce! Sì! Sì! Ho visto la luce! Hanno visto la luce anche loro, i fondatori di questa startup MyLeaf, che sta appunto nascendo, dalla lavanderia alle bollette, ecco l'azienda maggiordomo, questa è l'idea. Avete presente tutte quelle faccende sgradevoli, tipo andare a pagare la bolletta, andare alle poste, la lavanderia, ma anche altro, insomma, dal babysitteraggio al bisogno di una badante, eccetera. Ecco, loro si promettono di risolvere tutto questo. Come? Lo chiediamo ad Enrico Dalla Rosa, uno dei responsabili del progetto MyLeaf. Buongiorno. Buongiorno. MyLeaf, diciamolo subito, cosa vuol dire? MyLeaf significa la mia foglia, perché quando ci siamo messi a giocare con i ragazzi, il termine gioco è proprio voluto, no? Perché all'inizio è stato un grandissimo divertimento, in realtà lo è ancora, e dovevamo scegliere un qualche cosa per comunicare all'esterno qualcosa di speciale sulla nostra idea. Abbiamo deciso che l'oggetto che meglio rappresentava la nostra idea era un albero. Era un albero perché sostanzialmente ci permetteva di rappresentare le tre categorie in cui abbiamo segmentato il mercato verso cui si rivolgono tutti i servizi che offriamo. E cioè? Noi abbiamo in testa sostanzialmente la persona che lavora in un'organizzazione. Nell'organizzazione tipo la persona è, diciamo, sottoposta a leggeri stress, cioè vuol dire che quando sei un dipendente a tempo indeterminato oggi, sì, ti chiedono di, insomma, lavorare tanto. Questo vuol dire che tendenzialmente per loro dovresti restare totalmente sempre concentrato sul lavoro che fai. Questo. Se sei fortunato e un lavoro ce l'hai, naturalmente. Se, se non ce l'hai, sei fortunato, però sei sottoposto appunto a questa pressione. Quindi primo passaggio. Poi? Il primo passaggio. Tendenzialmente però, purtroppo, fortunatamente, è anche una vita fuori dal lavoro. Una vita che per un sacco di persone è importante, no? Certo. Dico questo perché un po' di organizzazioni tendono a dimenticarselo. Uh-huh. Per cui MyLeaf è un qualche cosa che noi proponiamo alle aziende per facilitare la vita dei propri dipendenti e aiutarli a risolvere tutti i problemi che possono distrarli, se vogliamo cercare di vendere questo concetto alle aziende, distrarli da essere molto produttivi. Quindi, partendo dal presupposto che se tu lavori in un'azienda e hai dei bisogni, come possiamo affrontare questi bisogni? La prima cosa che abbiamo cercato di fare è capire quali bisogni potevi avere. E la prima risposta è stata, tu sei una persona che lavora all'interno di un'azienda, quindi se tu sei quel tipo di persona lì, hai qualcuno che afferisce a te, qualcuno di cui sei responsabile. Questo qualcuno sono i tuoi figli, che è la chioma del nostro albero, le foglie, i frutti, ma hai anche un passato che sono le tue radici, che generalmente parlando è una cosa che le aziende non trattano molto. Ma come siete poetici, bello, tutto questo è molto bello. È un problema molto grosso, perché per esempio se fai caso, no, adesso è il tema della conciliazione, l'hanno chiamato così e noi abbiamo imparato che tutte le volte che ne parliamo la gente si spaventa un po', no? Perché conciliazione ti fa venire in mente i giudici, ti fa venire in mente i tribunali, in realtà il termine tecnico è la conciliazione famiglia-lavoro, no? Certo. Le nostre attività servono ad aiutare le persone che lavorano ad avere un miglior rapporto con la propria famiglia. In realtà, ecco, sì. Dimmi, scusa. No, tra l'altro diciamo anche, se ne è occupato il Corriere, un bel articolo di Dario Di Vico, il vice direttore, che presenta anche Enrico Dalla Rosa, 53 anni, di Varese, docente a contratto della Cattolica, che ha messo su questa idea con alcuni ragazzi, quindi c'è anche un team e c'è anche questo valore, diciamo, di scommessa sui giovani, visto che se ne parla molto Enrico. Come funzionerà però tutto questo? Un'idea forte, MyLeaf, ci stavi spiegando questo, cioè l'idea della foglia e dell'albero, ma poi tecnicamente la curiosità è questa, come funzionerebbe questo? È proprio stata l'illuminazione, no? Che voi avete ricordato facendo passare questo pezzo fantastico dei Blues Brothers. L'illuminazione è stata che sostanzialmente le realtà che abbiamo conosciuto che già tentavano o facevano conciliazione, facevano una fatica dell'altro mondo a trovare i partner che erogassero i servizi, no? Che avevano a che fare con questa conciliazione. Quindi la conciliazione avere una babysitter, la conciliazione avere un badante che ti dà una mano quando hai un anziano, no, che devi supportare. Trovare i fornitori di questi servizi è sempre una cosa da mal di testa per le organizzazioni. Noi in realtà, per tutta una serie di ragioni, sono 20 anni che andiamo in giro per l'organizzazione, le aiutiamo un po' a crescere, cerchiamo di capirle, cerchiamo anche di selezionarle. Per cui l'idea fenomenale che ci è venuta, e speriamo che sia veramente fenomenale, è: perché al posto di andare a insegnare alle aziende come si fa a mettere in piedi un servizio di conciliazione, non lo creiamo prima? Quindi andiamo sul territorio e cerchiamo tutta una serie di fornitori di questi servizi e vediamo se rispondono a quelli che sono i nostri requisiti di qualità. Uh-huh. Quindi abbiamo sviluppato un approccio, quando dico abbiamo, realmente i ragazzi hanno fatto un lavoro stupendo, no? Poi sai, insegnandoli puoi vedere da mattina alla sera, capisci subito quelle e quelli svegli e cerchi di tirarti dentro. Quindi abbiamo messo a punto una procedura per cercare di certificare, di capire se avevamo davanti dei fornitori seri, affidabili. Una volta che abbiamo creato e che creiamo sul territorio queste reti, andiamo dalle aziende che operano e che vivono su questi territori e diciamo: la conciliazione è una cosa bellissima, se la prendi i tuoi dipendenti saranno strafelici e più produttivi. Ti togliamo il mal di testa di trovare questi fornitori, non devi nient'altro che usare la nostra meravigliosa Abigail, che è lo strumento che abbiamo sviluppato per aiutare le organizzazioni a gestire tutto il traffico generato dal contatto tra gli utenti, che sono dipendenti delle aziende, e i fornitori di questi servizi. Abigail, che cosa intendi? Abigail è il nome della piattaforma. Perché quando ci siamo resi conto, allora noi veniamo da voi, no? Supponi tu lavori in Radio 24, bellissima radio, che decide di offrire ai propri dipendenti un servizio per facilitargli l'esistenza. Ecco, facciamo un bel esempio concreto, sì, così si capisce tutto. Allora, Radio 24 compra il nostro servizio, se lo mette in piedi da sola, quindi ti dice: guarda, io ho selezionato per te 10, 20, 30, in realtà il requisito minimo che abbiamo noi per definire una rete operativa è 40 servizi. Mm-hmm. Questo vuol dire che tu hai la capacità e la possibilità di andare ad attivare 40 diversi erogatori di servizi. Non solo, Radio 24, oltre a metterti a disposizione questa rete, siccome è generosa e buona, può anche decidere che ogni anno ti mette a disposizione 100 euro, 500, 1000 euro per comprare questi servizi, te li paga, te li offre. E io che sono il dipendente, cioè l'utente finale di tutta questa cosa... Devi entrare in contatto con questi fornitori di servizi. Sì. Devi dire: guarda che non ti pago io, ti paga l'azienda. Quindi ci vuole un po' di procedure, ci vuole un aiuto per gestire tutto questo traffico Lo fate voi. E questo lo fa la piattaforma e lo facciamo noi. Il nostro lavoro è proprio mettere in contatto te e tutti i tuoi colleghi, sì, con questa rete di fornitori e darti lo strumento informatico che ti serve per prenotare la visita dal fisiatra, per prenotare un'ora di babysitteraggio. In pratica diventa un benefit aziendale che l'azienda può decidere di offrire ai suoi dipendenti facendo un piccolo investimento e che va naturalmente a pagare il vostro servizio, quello che voi fate, certo. E quindi con un investimento che è sicuramente inferiore, qui la vostra idea, rispetto a quello che l'azienda avrebbe dovuto mettere in piedi per pensarci lei direttamente a tutti questi servizi, pagando molto meno, un'azienda può offrire ai suoi dipendenti un servizio che vale molto di più perché risolve una quarantina, forse più o meno, non so, insomma, di casistiche. Sì, allora, una specificazione. Una cosa è metterti a disposizione la rete, quindi l'azienda paga un costo che secondo noi è assolutamente interessante per mettere a disposizione di tutti i dipendenti una rete. In questo caso il dipendente va e compra lui a spese sue i servizi sulla rete. Immaginati un tema, no? La ludopatia. Scopri che hai un amico che ha problemi di ludopatia, gioca troppo. Ok, siccome è molto difficile trovare le persone che ti aiutano a superare questo problema, almeno questa è la nostra esperienza, noi abbiamo trovato degli specialisti che fanno questa roba e già ti abbiamo risolto un problema. Certo. Okay? Poi, e quindi questo è il servizio base, poi ci sono delle aziende che oltre a comprare questo servizio base decidono di aiutare i propri dipendenti mettendo a disposizione un budget. Tra l'altro, una delle cose estremamente interessanti, che è stato uno dei primi problemi su cui ci siamo focalizzati, è la possibilità di defiscalizzare questi soldi facendo le cose in regola, perché ci siamo resi conto che i nostri principali competitor, che sono dei gruppi grossissimi rispetto a noi, sono tutti partiti dalla possibilità di defiscalizzare. E questo si sa, tutti i benefit aziendali possono, cioè tutti, alcuni, avere questo vantaggio, che naturalmente poi è un incentivo per le aziende. Enrico, a quale step della startup siamo? Se c'è un'azienda che ci sta ascoltando, che fosse interessata, magari non è questo il canale, perché non è magari solo ascoltando la radio, però può, perché no, insomma, magari ascoltando la radio ha scoperto di questo servizio e è interessata. Come deve fare e a che punto siete nella capacità di offrire questo servizio? Dunque, il servizio, per quello che riguarda le due regioni su cui siamo partiti, la Lombardia e la Liguria, è pienamente operativo. Infatti abbiamo già due clienti, in realtà un'azienda che ci ha aiutato tantissimo, è la prima che ci ha permesso di sviluppare proprio il concetto, un'azienda di spezie che si chiama Conship, e la seconda azienda dalla quale siamo arrivati una volta che però tutto il servizio è stato sviluppato, il disegno è stato organizzato, un'azienda di Lecco che si chiama Omet. In realtà adesso abbiamo una montagna di contatti, incidentalmente siamo felici ospiti di una meravigliosa azienda che si chiama Accenture, che ha letto l'articolo di Vivico, che ha detto siamo interessati a conoscervi e a capirvi, no? Fatto è stato per noi un aiuto molto, molto grande. È stato un aiuto molto grande che ci ha permesso di farci conoscere, sicuramente anche il fatto di poter chiacchierare con voi, vi ringraziamo, è un aiuto. Una delle cose che potrebbe fare un'azienda interessata è andare sul nostro sito, che è www.myleaf, la mia foglia, quindi myleaf.it, e li trova il modo di raggiungerci. In realtà speriamo di avergli anche comunicato con quel sito lo spirito vero del nostro lavoro. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. With my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. With my own two hands, with my own two hands. Si può fare una libreria in un quartiere dormitorio di quelli così definiti dove non c'è niente, una libreria retta solo da volontari e dove però arrivano anche grandi nomi come ospiti per incontri, dibattiti eccetera. No, naturalmente non si può fare. No, invece sì, si può fare a Nichelino, alle porte di Torino questo accade grazie all'opera di 20 volontari coordinati da una grande persona che credo si possa dire così, Angelino Riggio, presidente dell'associazione Amici del Cammello. Angelino, buongiorno. Buongiorno. Non so se ho detto bene, lei che coordina queste 20 persone? Sì, io sono il presidente dell'associazione, grazie al cielo sono 40. 40, avevo letto 20. Beh, allora è ancora più un'impresa, perché 40 persone per una cosa del genere non deve essere facile. Prima di tutto però, perché il Cammello, associazione Cammello? Se avete un secondo, rapidissimamente ve lo dico. Anche due. Allora, noi non siamo nati come libreria, siamo nati come scuola di formazione politica 6 anni fa. Sì. Partendo dalla constatazione che la politica era in una condizione veramente disastrosa e volevamo ripartire dalla politica sulla base di alcune questioni. Idee, ideali, impegno, generosità e cultura. E il Cammello? E il cammello nella prima lezione, per spiegare che cosa dovrebbe essere la politica, ho raccontato una storia che vi racconto rapidissimamente. Sì? C'è un vecchio cammelliere che ritorna al suo paese. Prima di entrare nel paese vede un serraglio in cui ci sono dei cammelli, ci sono due persone che litigano violentemente e un terzo che insegue i cammelli con un coltellaccio in mano. Il vecchio cammelliere li riconosce e vede che sono i figli di un suo vecchio amico che non c'è più. Loro riconoscono il vecchio cammelliere, smettono di litigarsi, lo ospitano nella loro tenda, gli offrono del tè e gli spiegano perché stavano litigando. In pratica il loro padre, da che aveva un solo cammello, ne ha conquistati 11, ne ha guadagnati 11. Dovendo dividere l'eredità, aveva detto che in pratica ognuno doveva avere l'eredità in base a quanto aveva lavorato con lui, per cui al primo ne spettava metà, al secondo un quarto, al terzo un sesto. Si fa complicata la faccenda, abbiamo ancora un po' di tempo, però insomma. Molto complicata. E allora il vecchio cammelliere si offre di risolvere il problema. Sì. Mettendo il suo cammello insieme agli altri 11. A questo punto i cammelli sono 12, diviso 2 fa 6, il primo è contentissimo perché ne ha di più di quanti pensava. Quindi così si era risolta la faccenda. Il secondo ne ha 3, il terzo ne ha 2, 6 e 3, 9, 2, 11, resta un cammello che è quello del vecchio cammelliere che se ne va. Cioè la politica serve per risolvere i conflitti di interesse fra gli uomini, con vantaggio possibilmente per la maggior parte delle persone, senza guadagnarci né rimetterci nulla. Ecco, abbiamo spiegato. Da qua, benissimo, punto di partenza, alla libreria che avete da quanto tempo messo in piedi, Angelino? La libreria l'abbiamo messa in piedi un anno e mezzo fa, perché siccome uno dei cardini sulla, diciamo, riscoperta della politica su cui puntavamo era la cultura, abbiamo constatato che a Nicherino, 50.000 abitanti, non c'era nemmeno una libreria. Ecco, non è una cosa da poco. Ecco, fermiamoci un attimo a riflettere su questo. Nicherino, alle porte di Torino, 50.000 abitanti, città di emigranti, città, insomma, di sociologia se ne può far tanta, non c'era una libreria. E insomma, non è una cosa da poco, perché 50.000 persone per prendere un libro devono andare a Torino. E invece voi avete detto, ok, facciamola noi la libreria. Sì, partendo da questa... Cioè, Bobbio, parlando di Nicherino, diceva che se voleva portare un esempio di un quartiere dormitorio, doveva citare per Nicherino. Però la libreria ha delle particolarità, perché siete tutti volontari. Siamo tutti volontari, abbiamo aperto questa libreria nella piazza centrale della città, quindi facendo un grossissimo investimento economico, perché la libreria è molto grande, sono 250 metri quadri. Però. E quindi sì, quindi è una libreria vera e propria con 12.000 volumi, e inoltre la gente ci ha regalato 4.000 volumi di libri usati che noi vendiamo a un prezzo ovviamente stracciato. Noi facciamo uno sconto fisso del 10% per tutti quanti, sì, e abbiamo due grossissimi atù rispetto a una normale libreria. C'è da dire che in generale il mercato librario non rende. Questo in Italia è un mercato che già è in discesa, e quindi sarebbe difficile dappertutto, figuriamoci in una città che è stata disabituata a leggere e in un periodo di crisi. Però voi siete volontari, quindi la vostra aspettativa non è guadagno. Noi abbiamo questo prima tu, che in pratica non abbiamo spese di personale, e questo ci fa risparmiare quello che ci basta per pagare un affitto mostruoso come quello che può essere un locale così grande nel centro della città. Il secondo atu che abbiamo è che noi possiamo rivolgerci alle varie istituzioni che ci sono sul territorio, come la biblioteca, come le scuole, sia di qualsiasi ordine e grado, con le associazioni di volontariato, essendo accolti ovviamente molto bene, perché nessuno pensa che noi ci muoviamo con interesse di lucro, ma ci muoviamo esclusivamente per l'interesse della cultura e della promozione del libro. Insomma, siete quasi un servizio pubblico, e poi ci sarebbe semmai da discutere perché lo devono fare i cittadini al posto magari di istituzioni come per esempio il comune, perché magari una biblioteca. Il comune ha già la biblioteca. Ha già la biblioteca. È una bella biblioteca con cui noi lavoriamo insieme. Tra l'altro di recente abbiamo fatto un protocollo d'intesa per cui, per quello che riguarda alcune delle nostre attività, perché noi oltre che libreria facciamo naturalmente la presentazione dei libri, abbiamo un circolo della poesia, un laboratorio di lettura, la scuola di formazione politica che 4 anni fa è stata inaugurata da Caselli, 3 anni fa è venuto Zagrebelsky, l'anno scorso è venuto Guariniello a inaugurare la scuola di formazione politica, e quest'anno è venuto Don Ciotti. Adesso abbiamo chiesto a Calabresi, che è stato così gentile da pubblicare un articolo su di noi sulla stampa, di venire a inaugurare il nuovo corso l'anno prossimo. Da cui noi abbiamo tratto poi la notizia, l'articolo della stampa. Esatto. Come siete organizzati? Come si fa a motivare, o sono già motivati da sole, 40 persone che in qualche modo lei coordina in tutta questa attività, che immagino faccia bene a chi la fa oltre che a chi la riceve? Ma noi abbiamo due meccanismi di tesseramento. Un meccanismo di tesseramento di chi crede in questa libreria, per cui ci tassiamo con 10 euro al mese, e siamo una settantina all'incirca che paghiamo queste 120 euro l'anno, di cui 40 sono volontari fissi e altri sono dei sostenitori e basta. Poi in pratica tutte le persone che vengono ad acquistare da noi debbono anzi fare una tessera, perché essendo un circolo praticamente non potremmo vendere al pubblico, vendiamo ai soci, però per diventare soci è semplicissimo, perché basta fare una tessera che costa 10 euro l'anno oppure 1 euro al mese, e questo ci dà ci dà la possibilità di avere le entrate rispetto a quelle che sono le utenze, che sono anche quelle non da poco, perché dobbiamo pagare le tasse comunali sulle insegne, sulle tende, insomma un sacco di scartoffie, di spese che ne fareste volentieri a meno. Però insomma ci state dentro per ora, sta andando bene, questo si sente di poterlo dire, credo. Vi auguriamo lunghissima vita e anzi soprattutto ci auguriamo che chi ci sta ascoltando magari si è ispirato a un'iniziativa di questo tipo, di questo genere, originale sicuramente nel suo genere. E allora lunga vita alla libreria, qual è il nome? Libreria del Cammello. Si chiama Il Cammello, Il Cammello, per forza, non poteva che essere così. E grazie anche ad Angelino Riggio per essere stato con noi. Io saluto tutti, ringrazio tutti per la puntata di oggi, ci fermiamo qua. Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Massimo Brugnone per l'assistenza alla puntata di oggi, Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo sabato prossimo, vi lasciamo alla segreteria telefonica. Ciao a tutti, sono Ludovico Bonfiglio, sono un inventore. Per salvare l'Italia bisogna utilizzare i fondi comunitari che l'Italia perde, sta per perdere l'Italia circa 5 miliardi di euro dalla Comunità Europea. Ho detto al ministro Corrado Passa che bisogna obbligare le banche ad aiutare chi ha l'idea a partecipare ai bandi europei senza mettere un centesimo, con la sola garanzia. Se io vinco il bando la banca riceverà i finanziamenti, così mi può dare i soldi che mi ha promesso. Bisogna investire su innovazione, ricerca e sviluppo. Io ho 75 menzioni su energie rinnovabili e potrei dare lavoro a tantissime persone. Questi sono i miei ultimi tentativi, dopodiché me ne andrò all'estero a realizzare le mie invenzioni. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.